il rosso era per me l'irraggiungibile che sempre mi inganna. Sto qui, il cuore lento di diavolo fragile, così il sole aspetta che abbassi la mia testa e il toreador colpisca. Così l'attesa su di me, silenzio immobile, e adesso sono